Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema della giornata economico-finanziaria. Allora, partiamo dalle borse che hanno avuto una giornata altalenante. Perché? Perché hanno provato fino a poco fa a stare in terreno positivo, a recuperare qualcosa dopo i tonfi, i crolli di ieri. Non ce l'hanno fatta, non ce la stanno facendo, soprattutto non ce la sta facendo Milano, che adesso perde un altro 2,22%, 18.000 punti l'indice. È andato in negativo anche Parigi, meno 0,33%, Francoforte meno 0,20% e Londra adesso è invariata. Il Dow Jones resta positivo di 1,5%, l'euro su dollaro è sempre in leggero rafforzamento a quota 1,13. Dunque, qualcuno già vuole polemizzare sul fatto che noi ci occupavamo della sanità solo come prezzo della siringa e non la drammatica riduzione del posto letto. Guardi, se si riferisce alla spending review, il tema era proprio questo, cioè che una siringa non poteva costare 16 volte in Calabria rispetto a quanto costasse in Val d'Aosta, e quindi il tema era anche di sprecare meno o rubare meno in sanità in alcune regioni e dare più soldi alla sanità. Ma il tema sanitario, ripeto, lo affronteremo adesso, la cronaca è anche abbastanza difficile da gestire, spero almeno domani, il tema appunto di cosa è successo alla sanità italiana. No, veniamo invece ai temi di oggi. Allora, come avete sentito dai nostri GR24, le opposizioni hanno incontrato il governo e hanno chiesto, lo ha ribadito anche Salvini uscendo dall'incontro, misure ancora più drastiche, e quindi la chiusura di tutti i negozi non necessari, si intendono per necessari quelli che vendono chiaramente beni alimentari e le farmacie, e anche il blocco dei mezzi di trasporto. Da quello che lo hanno chiesto anche i governatori di Lombardia e Veneto, e da quello che appunto hanno dichiarato poi i leader dell'opposizione, il governo non ha recepito questa indicazione o questa richiesta, questo invito. Però attenzione, perché sappiamo, come è successo poi ieri sera, che una volta usciti i dati, il famoso bollettino della protezione civile, potrebbero anche cambiare le cose. Qui c'è un punto che affronteremo dopo anche col mondo del commercio, cioè da un lato bisogna cercare di capire a che cosa serve tenere aperti non i negozi di genere alimentare. Io non ho capito perché a Palermo, a Roma, a Napoli ieri sera, dopo l'intervento di Conte, vi sia stata in alcuni casi la ressa per andare a accaparrarsi i generi alimentari. Era chiaro fin dall'inizio, guardando quello che era successo anche nella zona arancione che già esisteva, quindi Lombardia e gli altri comuni interessati, che i generi alimentari non erano messi in discussione, i negozi sono aperti. Però ci si chiede se abbia un senso continuare con questa logica dei bar aperti fino alle 18, dei ristoranti aperti fino alle 18. Il mondo del commercio lamenta in alcuni casi che è una pratica scorretta per gli esercizi che lavorano di più la sera rispetto ad altri, cioè si vanno a favorire negozi, bar e ristoranti che magari lavorano durante la giornata e non la sera. Dall'altro sostanzialmente vengono mantenuti aperti questi luoghi senza persone, senza clienti, in molti casi con un costo ulteriore. C'è un terzo aspetto, devo dire che in questo caso a mio avviso il ragionamento di Salvini ha una sua logica, non tanto nel blocco dei trasporti, perché se si dà la possibilità con l'autocertificazione alle persone di recarsi al lavoro, è chiaro che lascia aperti anche i mezzi pubblici. No, il tema è dei negozi, nel senso che da quello che si è capito, questa benedetta autocertificazione è scritto anche è prevista per motivi di lavoro, inderogabili, di salute e altre necessità. Ora, mentre risulta, ed è stato chiarito più volte, che l'acquisto di generi alimentari, di generi di prima necessità, è ovviamente una necessità, io non penso che dentro la categoria necessità entri, non so, il negozio di lingerie, di elettrodomestici piuttosto che di prodotti tecnologici o anche il negozio d'abbigliamento. Tant'è che molti hanno già chiuso di loro, ma soprattutto quello che dice Salvini, a mio avviso non è sbagliato, e cioè se da un lato il DPCM ti dice che tu puoi circolare solo per questi tre motivi, che senso ha tenere aperti i negozi se tu in realtà, stando a quello che abbiamo capito, non puoi, non è che comprarsi un nuovo paio di scarpe possa essere messo come motivo di necessità, andare a fare la spesa sì, e allora che cosa li teniamo aperti a fare se poi io teoricamente non potrei neanche, anzi non solo teoricamente non potrei neanche andarci? Questo è un dubbio. L'altro elemento di cui ci occuperemo riguarda in sostanza anche la tenuta del paese, non solo dal punto di vista economico ma anche in chi da sempre studia la psicologia assieme unita all'economia, e riguarda anche quello che stavo citando, cioè l'assalto ai supermercati ieri in alcune grandi città del sud. Palazzo Chigi ha dovuto ribadire che i servizi alimentari saranno sempre disponibili, che gli alimentari saranno sempre in vendita e che i negozi alimentari resteranno aperti. È successo anche nei supermercati notturni però di Torino e della Liguria, non solo al sud, è successo anche a Isernia, come a Firenze e a Pisa. Federalimentare ha dovuto ribadire che le scorte ci sono, e tra l'altro a gennaio, l'ha fatto notare la Coldiretti, c'è stato un aumento record della produzione di alimenti e bevande, più 7%, quindi tutti gli approvvigionamenti sono garantiti, lo dico a chi ci ascolta, è inutile andare ad assaltare i negozi. Anche il numero uno di Filiera Italiana, Scodamaglia, ha detto che non ci deve essere psicosi da scaffale vuoto, gli scaffali sono pieni, l'approvvigionamento è garantito, e anche di questo parleremo. La borsa ve l'ho già data, poi c'è in apertura tutta la parte internazionale. Sostanzialmente faccio prima, adesso lo leggerò, a dire che la stragrande maggioranza delle compagnie aeree hanno interrotto i voli con l'Italia, British, Ryan, EasyJet e quant'altro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vedo che stanno arrivando molti messaggi che dicono: ma scusatemi, ma se si rompe la candela della macchina, io ho la macchina rotta, il meccanico diventa un elemento di prima necessità. Le fabbriche nessuno ha mai parlato di chiuderle, qui si sta parlando dei negozi, cioè qual è il ragionamento? Il timore dei governatori, soprattutto Zaia e Fontana appunto, ma non solo, è che i negozi possono rappresentare comunque un'alternativa per creare assembramento, e quindi si dice, tranne quindi di estrema necessità, chiudiamoli. Allora è vero che oggi la situazione era molto diversa in moltissime città, però il tema c'è. A chi invece mi dice adesso non dite più che è stata sbagliata la comunicazione del Premier, immagino che il riferimento fosse ai primi giorni. No, io posso ritenere che la comunicazione dei primi giorni sia stata troppo, diciamo, vi sia stato un eccesso di esposizione mediatica e anche di caos di informazioni che venivano date, tra di loro anche contraddittorie. Però così come posso criticare il governo o i governatori delle regioni all'inizio, la critica che abbiamo fatto ieri e anche l'altro ieri durante lo speciale era soprattutto ai governati, non ai governatori, e cioè agli italiani idioti che se ne sono fregati di tutto quello che stavamo dicendo da giorni, non solo i ragazzi, per carità, poi non è che siccome hai 20 anni sei più autorizzato a essere idiota di uno che ne ha 50, è idiota anche il ventenne che non capisce, va a prendersi lo spritz con le immagini che abbiamo visto, è idiota anche il padre che porta il figlio, lo porta anche solo se stesso, nelle file a 20 centimetri di distanza per andare a farsi l'ultima sciata e non utilizzare le precauzioni chieste. Comunque, adesso arrivo al tema dei negozi, perché Allora è vero che molti hanno già auto chiuso, hanno fatto 2, 3, 4 scontrini in questi giorni, quindi hanno chiuso. Perché poi se tu riuscissi a chiuderli potresti vedere se si può esplorare, come chiedono alcuni economisti, ne parleremo domani, la possibilità di mandare in ferie i tuoi dipendenti e magari tenere aperti i negozi ad agosto o avere, diciamo, una diversa. Mi rendo conto, diciamo anche ieri, che andare in ferie forzate a marzo non sia come andare al mare ad agosto, ma questa è una situazione eccezionale. Siccome qua il mondo del commercio in primis perderà un mese, meno lo perderanno le imprese, probabilmente le imprese riescono ancora a reggere, parlo delle imprese manifatturiere, ma il mondo del commercio con questi dispositivi chiaramente è in ginocchio. Forse è il caso di anche inventarsi qualcosa di nuovo anche sul fronte dello scarico, recupero ferie, per mettere l'azienda in ginocchio. E poi è importantissimo che arrivino, come dicevamo ieri, i soldi via elicottero, cioè i soldi non devono essere dati come tassi di interesse che sono già a zero, devono essere dati direttamente ai percettori di reddito, perché questo è il problema che avranno molti esercizi commerciali. Allora, non ho detto di mandare in ferie, ho detto che adesso si sta ragionando sulla cassa integrazione straordinaria, adesso arriviamo. Comunque, per quello che riguarda la Cina, l'inflazione è salita del 5,2% a febbraio, Trump continua ad avere invece negli Stati Uniti un atteggiamento completamente schizofrenico, da un lato nega l'emergenza, dall'altro però è pronto a dare aiuti alle compagnie, alle società crocieristiche, e poi chiede alla patetica Fed di ridurre ulteriormente i tassi, mentre in Cina c'è stata l'importantissima visita del presidente Xi Jinping a Wuhan, all'epicentro al focolaio primo del coronavirus, e ha detto molti commenti sugli sforzi, molti applausi sugli sforzi cinesi, ha detto sostanzialmente la vittoria è vicina. Tono e tenore completamente diverso invece quello usato da Macron in Francia, perché Macron ha detto siamo soltanto all'inizio di questa epidemia di coronavirus in Francia, siamo solo all'inizio, bisogna essere molto molto lucidi, e tra l'altro c'è in quarantena anche il suo portavoce, il portavoce Eliseo, c'è un ministro del governo Macron che ha contratto il coronavirus. Il bilancio dei casi sale adesso a 1000 e in Francia 1606 con 30 morti, ieri erano 1400 e 25 vittime. L'allerta resta ancora allo stadio 2, quello precedente all'epidemia, però anche qui io continuo con sto bollettino, ma prendendo la serie storica dei casi in Italia e confrontandoli con quelli della Francia, così come loro ieri erano a 1200, ossia come noi sabato 29 febbraio 1128, oggi sono a 1600 come noi domenica 1 marzo eravamo a domenica 1 marzo eravamo a 1690 casi. È impressionante, vale anche per la Germania, la progressione è quasi identica, lo dico perché continuiamo a mantenere rispetto alla Francia e alla Germania circa gli stessi 10 giorni, non è che purtroppo stia rallentando lì, è la stessa progressione. Ecco perché Macron dice beh, se questa è la progressione, ricordo che l'Italia lunedì 2 marzo era arrivata a quota 2000 e quindi anche la Francia si tende ad arrivare a quota 2000 e via così. Allora, i contagi accelerano anche in Gran Bretagna, sono a quota 373, mentre sono stati colpiti tutti i 16 Länder tedeschi. La Unione Europea chiede, visti i tempi eccezionali, misure eccezionali. Il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente del gruppo del PPE del Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha detto serve flessibilità sugli aiuti di Stato. La gente non riesce a capire come mai non riusciamo ad avere un approccio comune per affrontare questa emergenza, la von der Leyen ha chiamato Conte, Dombrovskis ha lodato il coraggio dell'autorità italiana, la von der Leyen ha detto che siamo pronti a un sostegno aggiuntivo per l'Italia. Sì, io continuo a pensare che queste misure, visto l'impatto complessivo, siano ancora poco. Cioè, se qui arriviamo a chiedere adesso 10 miliardi, la cifra finale sarà intorno ai 30-35. La cosa migliore lo chiede anche l'ufficio parlamentare di bilancio, emettere bond a garanzia europea, eurobond, per finanziare gli investimenti. Comunque, per la Germania tutta l'Italia è zona a rischio, ma non è per la Germania, è il governo che ha deciso di mettere, insomma, tutta l'Italia in codice arancione, diciamo. Il Giappone divieta gli arrivi dall'Italia, la Germania sconsiglia i viaggi in tutta Italia, la British ha cancellato i voli per l'Italia, EasyJet ha bloccato i voli per l'Italia, la Spagna ha vietato i voli diretti per l'Italia, annullati 30 voli tra l'Italia e Bruxelles, Malta ha chiuso l'Italia e da Malta nave e volo solo per il rientro degli italiani, l'Austria ha fermato anche i voli per l'Italia. E qui parleremo dell'Austria perché c'è un casino incredibile sul Brennero, perché oggi con una decisione unilaterale l'Austria ha bloccato gli ingressi dall'Italia, non concordando, ha solo comunicato il cancelliere Sebastian Kurz alla Farnesina. Non è arrivata però nessuna notifica all'Unione Europea di una sospensione di Schengen, e quindi cercheremo di capire. La buona notizia, perché manca solo che si blocchi il Brennero sulle merci, il 30% del traffico sud-nord italiano passa attraverso il Brennero. Lo spread è a 216 punti, è un dato che così deve far riflettere, perché nel mese di gennaio in realtà la nostra industria aveva avuto un rimbalzo fortissimo, prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, chiaramente aveva fatto più 3,7% su dicembre, un balzo così forte si era toccato solo nell'agosto 2007. Chiaro che adesso a febbraio avremo un altro dato molto probabilmente. Infine ancora due note che riguardano il ministro Patuanelli, ha detto si va verso uno dei quattro canali su cui si sta indirizzando il governo per aiutare famiglie e imprese, quello della liquidità che va garantita, e questo la si fa con la sospensione dei pagamenti di mutui, bollette e tributi su tutto il territorio nazionale. L'ordine di grandezza per ora è di circa 10 miliardi, 7 miliardi e mezzo è un limite che verrà superato, il patto di stabilità e il fiscal compact vanno rivisti. Aggiungo anche, non mi sembra il caso di discutere adesso in Europa il 14 marzo il MES, il meccanismo europeo di stabilità, mi sembra che abbiamo altri problemi. Un'ultima notizia e poi passiamo al mondo del commercio, perché se la Consip ha annunciato che entro tre giorni arriveranno 119 ventilatori e un totale di 1100 entro 15 giorni, e che poi ha aggiudicato la prima procedura d'urgenza di gara per dotare 5000 posti letto aggiuntivi in 5 giorni di terapia intensiva, quasi il doppio di quelli esistenti in questo momento, la Cina, lo ha dichiarato oggi il ministro Di Maio, ci manderà 1000 ventilatori polmonari, è pronto a fornire all'Italia 1000 ventilatori polmonari che l'Italia si è presta ad acquistare, e oltre 2 milioni di mascherine, è disposta a inviare 100.000 mascherine di massima tecnologia e 20 milioni di mascherine di 20.000 tute protettive all'Italia, oltre che 50.000 tamponi per effettuare nuovi test. Si sono incontrati, cioè, telefonicamente chiaramente, il ministro Di Maio e il suo omologo Wang Yi. Allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo col primo tema. Cosa fare dei negozi non di stretta necessità, non dei negozi alimentari e non delle farmacie? Patrizia De Luise, presidente della Confesercenti, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. E grazie anche al direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, della Confcommercio, Roberto Calugi, buonasera. Buonasera a voi, Barisoni. Allora, rapidi, poi vi darò la parola dopo il metro. De Luise, mi dica una cosa, insomma, le opposizioni dicono bisogna, al di là dei trasporti, chiudere i negozi non necessari, anche perché c'è una contraddizione tra il DPCM che invita tutti a stare a casa, tranne che per lavoro inderogabile, salute inderogabile e estrema necessità, quindi generi alimentari, e l'idea che i negozi restino aperti. Alcuni suoi associati ci hanno scritto, vostri associati ci hanno scritto dicendo: guardate che noi qua poi apriamo e abbiamo un costo per non avere clienti, tanto è meglio chiudere e trovare formule alternative. Che ne pensa, De Luise? Ma infatti questa è la richiesta che ci viene dai nostri associati, anche a noi scrivono queste cose e ci dicono queste cose. Allora, direi che questa emergenza è veramente grande, la situazione è grave, la salute di tutti noi deve venire al primo posto, ma non solo la salute, anche la tenuta della sanità pubblica. Se chi è esperto di queste cose, perché adesso ci stiamo scoprendo tutti, ci siamo scoperti tutti epidemiologici, no? Bravissimi, no, tutti bravi, no, nemmeno io, perché proprio veramente, però tutti, no, bravi a dire. Allora, se ci viene indicato per la nostra tutela, ripeto, non solo rispetto all'espandersi del coronavirus, ma anche proprio della tenuta della sanità pubblica, quindi ad altri malati che hanno bisogno di quel tipo di interventi lì. Se veniamo invitati a stare il più possibile a casa e cercare di... Io credo che seguendo queste indicazioni, è buon senso questo, evitiamo il proliferarsi di questo virus che a quanto pare invece prolifica velocemente, quindi contribuiamo a mantenerlo, a cercare di rallentarlo. Prima un po' di sacrificio oggi ci permetterà forse di uscirne più velocemente. I nostri associati, come diceva lei, ci scrivono, ci dicono: non abbiamo nessuno, che facciamo? Ebbene, allora a questo punto un po' di sacrificio, cambiamo un po' di abitudini di vita e cerchiamo di limitare il più possibile questo danno. È ovvio che bisogna però dare, come dire, una sorta di sicurezza, anzi, se mi permette, lo dico a queste imprese, perché io sento dal tono della loro voce quanto sono preoccupati, perché devono, indubbiamente devono anche, come dire, rassicurare i loro dipendenti che hanno paura di andare a lavorare, che hanno sì, perché c'è anche il tema della sicurezza di chi poi tiene i negozi aperti, giustamente. Infatti abbiamo questo tema e quindi devono rassicurare i dipendenti. C'è il problema che non si sa, gli incassi non ci sono, non si sa come pagare gli stipendi. Allora cerchiamo di tenere i nervi saldi, io dico a queste imprese: non siete soli. Tutto quello che è l'interpretazione dei decreti, rivolgetevi alle vostre associazioni e siamo in grado di darvi tutto il supporto per interpretare le normative. Nello stesso tempo cerchiamo di fare chiarezza, fare in modo che non ci sia, come dire, un intervento a macchia di leopardo, che ogni regione, ogni comune dia delle direttive che poi si crea confusione su confusione. Ormai l'Italia è stata attenzionata, tutta l'Italia, per mettere in sicurezza il nostro paese, quindi facciamo questo sacrificio, riconosciamo che, anzi riconosciamo e ringraziamo, come ringraziamo tutti i medici e gli operatori della sanità pubblica che si stanno un attimo Luisa, perché volevo far sentire anche Calugi, poi ho il meteo e poi vi chiedo invece che cosa, perché è chiaro che tu dici ai vostri associati meglio chiudere, però loro chiedono anche garanzie di carattere economico, perché tu chiudi, non puoi mandare a spasso o a gambe all'aria i tuoi collaboratori, quindi la cassa integrazione, ma non solo. Comunque, Calugi, anche dal mondo che lei rappresenta, cioè tutti i bar, pubblici esercizi italiani, arriva la stessa richiesta? Ma innanzitutto, Barigione, ne approfitto, mi scuso, però vorrei davvero 5 secondi per esprimere la vicinanza, l'affetto, un abbraccio virtuale, radiofonico a tutta la categoria della ristorazione che in questo momento è davvero in prima linea. Sì, arrivano anche a noi, ovviamente arrivano tantissime comunicazioni, basta girare le città a capire che già molti ristoranti hanno chiuso per impossibilità di operare e gli altri stanno veramente operando più con spirito di responsabilità e perché in qualche maniera il DPCM gli ha chiesto di rimanere aperti quasi fossero dei presidi territoriali. È evidente che se dovesse arrivare la richiesta da parte del governo di chiudere, mi sembra che Lombardia si sta andando verso questa direzione, non potremmo far altro che accettarla, rispettarla e essere, come dire, i primi a cercare di dare anche il nostro contributo nei confronti, diceva bene la Presidente Luise, non soltanto di loro stessi, ma anche dei collaboratori, ma anche dei clienti che arrivano all'interno dei nostri punti vendita. È importante però, Barisoni, magari ne parliamo dopo, che però davvero si faccia presto. Noi lo stiamo dicendo, qui stanno saltando migliaia di imprese, non possiamo. Quindi, se ho ben capito, voi siete d'accordo nel dire chiudiamo sti negozi non necessari, lo ribadisco, qualcuno mi dice ma io penso che sia un meccanico, un'autofficina, sto avendo molte revisioni in questo periodo perché la gente non ha niente da fare. No, ma forse non ci siamo capiti, la gente non può uscire per fare la revisione dell'auto. Poi non so cosa mette nell'autocertificazione, può uscire solo per tre motivi di estrema necessità: o lavorativo, perché non si riesce a lavorare da casa, o di carattere sanitario, farmacia, piuttosto, oppure di beni di necessità. La revisione dell'auto non rientra tra i beni di prima necessità. Comunque, detto questo, vorrei sapere dopo il meteo che cosa chiedete, perché allora i negozi chiudono, da quello che noi abbiamo capito bisogna mantenere in vita, qui uso un esempio che mi viene facile, cioè alimentare il mondo dell'economia un po' come si fa in questo momento, ahimè, in chi è in terapia intensiva, e cioè mantenerlo in vita fino a quando non riaprirà. C'è la cassa integrazione straordinaria, ma c'è la sospensione dei pagamenti, tasse, mutui e quant'altro. Vorrei capire se volete anche un'iniezione di reddito diretto dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Allora Calugi, anche voi che cosa chiedete? Stanno arrivando adesso, Catalfo ha detto poco fa che vi saranno 2 miliardi, congedi speciali di 12-15 giorni anche per i lavoratori autonomi. Nel nuovo decreto anti-coronavirus il congedo sarà previsto per tutti i lavoratori dipendenti autonomi e si potrà usare in alternativa al voucher babysitter. Una forma speciale di congedo dai 12 ai 15 giorni allungato fino ai 12 anni. Di età dei figli con indennità parametrata alla retribuzione, niente limiti di età per le famiglie con figli disabili. E poi e poi avevo visto un'altra agenzia che parlava di 2 miliardi, eccola qua, 2 miliardi per la cassa integrazione in deroga, mentre il ministro Di Maio sui voli sospesi dice beh, ci ricorderemo di chi c'è stato vicino, critico chiaramente. Allora Calugi, Guardi Barisoni, innanzitutto quello che noi chiediamo è chiarezza, perché vede, anche lei negli ultimi 5 secondi, 10 secondi ha parlato di una serie di provvedimenti annunciati. Noi semplicemente, visto che abbiamo a che fare tutti i giorni con migliaia di persone che hanno in 2 settimane visto cambiare la loro vita e quella dei loro collaboratori, vorremmo che si evitasse il teatrino degli annunci. Noi vorremmo che giovedì, quando dovrebbe uscire questo decreto legge di cui si sente parlare ormai da 10 giorni, ci fosse semplicemente chiarezza sugli strumenti a disposizione e soprattutto velocità, perché qui stiamo parlando di piccolissime attività che vivono di cassetto. Sarà anche brutto dirlo, ma è la caratteristica del sistema produttivo italiano. Aspettiamo poi altri 4 mesi, i decreti attuativi e tutto quello che deve essere messo per far arrivare un euro a questi imprenditori, noi quando sarà a riaprire, passerà questo virus, ci ritroveremo con migliaia di imprese che non riusciranno ad aprire. Quindi la prima cosa che chiediamo è chiarezza e fare presto, in modo tale che ci siano degli interventi, anche pochi, ma finanziati, e temo che le cifre che stiamo sentendo siano sottostimate rispetto, mi rendo conto, dei vincoli del bilancio dello Stato, ma solo il settore della ristorazione sta perdendo 4 miliardi e mezzo di euro al mese. Quindi se questa roba va avanti, e sto parlando solo di un mese, questa roba sta andando avanti da un bel po' e andrà avanti purtroppo, temo, per un altro po', quindi chiarezza sulle risorse, velocità e semplicità di utilizzo. Poi tutte le cose che stanno emergendo mi sembra che siano ovviamente nella direzione auspicata. La cassa in deroga, togliamo per favore il limite dimensionale delle imprese, perché ma mi sembra che questo sia abbastanza, l'orientamento di tutti, cioè i 5 dipendenti, dice. Esattamente, perché se noi abbiamo un paese dove il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, andiamo, no? La prima cosa è quella, non dimentichiamoci dei lavoratori autonomi, perché ovviamente vanno salvaguardati i collaboratori, ma le faccio l'esempio, il piccolo titolare di un bar, domani magari c'hai i collaboratori che riescono ad accedere agli ammortizzatori sociali, lui e la sua famiglia rimangono dimenticati. Abbiamo proposto anche noi quel tema sul blocco degli sfratti per morosità degli affitti. Perché? Perché non vorrei mai, Barisoni, che questa sia un'altra occasione in cui la rendita in questo paese passa da chi lavora e in questo momento purtroppo non riesce a lavorare a chi è proprietario di un asset, cioè di un immobile. Cerchiamo di capire che questo è il momento di essere tutti uniti, quindi anche chi magari percepisce un affitto da un proprietario di un bar, magari in questo momento può pazientare un attimo, io direi anche magari che in questo momento potrebbe anche fargli un piccolo sconto rispetto alla rendita immobiliare. Ma al di là degli sconti, se c'è la sospensione di tutti i pagamenti, mutui inclusi, io immagino anche degli affitti. È ovvio che tutto quello che fa mantenere un po' più di contante, di circolante al piccolo esercizio, il bar in questione, serve, perché tu non hai avuto gli incassi, non stiamo parlando di imprese che hanno chissà quale cassa. Esattamente. Poi mi permette una battuta. Ma poi sul fatturato invece sono d'accordo con chi mi dice, poi se andando a vedere i fatturati, certo. E lì non vorrei essere nella parte di chi ha fatto nero, questo lo dico, perché tu quando dovrai confrontare il fatturato del 2020, se c'era un'idea nel governo di dire andiamo a vedere chi ha perso più del 25% del fatturato, confronterai quello che è dichiarato, ma lì sono cavoli suoi. Mi dica, ho 10 secondi, Calugi. Una piccola battuta, possiamo anche evitare da parte, che ne so, dell'Agenzia dei Monopoli di uscire adesso con direttive sulla lotteria degli scontrini, perché i miei in questo momento gli scontrini non li stanno facendo, quindi no, anche da un punto di vista di comunicazione sono d'accordo con lei, a me quell'iniziativa piace, ma vorrei capire dove viveva quello che l'ha fatto uscire adesso, perché insomma mancano gli scontrini, mancano i clienti, è una lotteria senza scontrini, senza numeri, è una tombola senza numeri, senza persone, vale poco. Allora, grazie intanto anche a Roberto Calugi, non posso fare la puntata sul fatto che si possa fare attività all'aperto, invece c'è qualcuno che continua a dirmi, no, guardi che io nel mio comune con la bici posso girare dove voglio. Ancora, se il testo recita i cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute, questo è il testo. Comunque dai, GR24 Focus Economia. Sì, non voglio più guardate, non sono temi sociali o sanitari, qui è tutto un unicum, perché è tutto un tema economico che si innesta nel dramma sanitario del coronavirus e nei comportamenti sociali delle volte irresponsabili degli italiani. Da questo punto di vista mi dispiace, ma anche se il suo moroso o ragazzo o ragazza stesse nello stesso comune, stante il decreto, lei non potrebbe uscire di casa per andare a trovarlo, perché non mi sembra una necessità impellente. Poi uno mi ha scritto, vedere l'amante è una necessità. Ho capito. Niente, non vedo che non se ne fa. Allora andiamo da Andrea Ferro per una cosa serissima, perché quello che è il valico alpino più importante per il nostro commercio, il Brennero, ce ne siamo già occupati 3 settimane fa per un altro motivo, il Brennero rappresenta il 30% di tutto il traffico nord-sud, 50 milioni di tonnellate nette di merce trasportata, il 70% su gomma e il 30% su rotaia, passano più di 2 milioni di mezzi pesanti, l'Austria ha il tiro, lo ha annunciato, e l'ha fatto anche l'Austria, stop all'ingresso all'Italia. È stato solo comunicato al governo italiano, all'ambasciatore italiano a Vienna, una decisione già presa, sono iniziati i controlli al Brennero, i controlli sanitari, e fin qua da bene, vorrei capire da Andrea Ferro se riguarda anche le merci, perché a tutt'ora alle 18.21 ancora non ho capito se i controlli riguardino solo cioè il blocco riguardi solo gli individui e poi però gli autisti dei camion, dell'autotrasporto vengono controllati ma poi possono passare, o riguarda anche le merci, Andrea? Sì, buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Io tutto il pomeriggio che sono in contatto con i rappresentanti dell'associazione di categoria per essere aggiornato su quello che succede al valico. Allora, le merci transitano, gli autisti vengono controllati a Campione, okay. Alcuni sottoposti ai test medici come il controllo della temperatura, ma ho una notizia che mi è arrivata mentre era in corso la conferenza stampa di Borrelli, sempre nell'ambito di questi contatti che ho perfezionato nel corso del pomeriggio. Secondo fonti austriache, il provvedimento annunciato nella tarda mattinata dall'Austria, cioè il blocco totale, in realtà riguarderebbe solo i passeggeri, cioè quindi le persone, okay. Ma sarebbe consentito il trasporto delle merci con procedure, lo leggo proprio testualmente, per verifica sanitaria in fase di definizione tra Austria e Italia. Cioè sostanzialmente starebbe trattando su come operare questo tipo di vaglio al passaggio dei tir, che tipo di documentazioni evidentemente gli autisti devono produrre. Questo quindi significherebbe che il blocco delle merci, ripeto, non è una notizia ufficiale, è un'indiscrezione che trapela dalle associazioni di categoria. Ripeto, il blocco delle merci sarebbe scongiurato, anche se chiaramente ci saranno, o ci sarebbero per così dire, meglio usare il condizionale, lunghi tempi di attesa, i passaggi, chiaramente un traffico. Sì, che non va bene, che non va bene comunque, perché il governo ha stabilito diciamo la zona arancione, ma come ho chiarito 28 volte in questa diretta, per motivi di lavoro uno si può spostare. Ora, uno potrebbe aver bisogno o necessità di andare al lavoro da Milano piuttosto che da Varese a Vienna o a Innsbruck. Il governo italiano ti dice che tu ti fai l'autocertificazione, dici motivo in comprovate esigenze lavorative, devo andare lì. Il problema è che questi stanno sospendendo Schengen sostanzialmente. Ma certamente, certamente, peraltro poi voglio dire, l'atteggiamento, ne avete parlato recentemente a Focus, lo ricordiamo nei nostri programmi dedicati al mondo della logistica e dell'autotrasporto, c'è un atteggiamento diciamo così ostile al passaggio dei tir in territorio tirolese da parte del Tirolo, ma anche chiaramente da parte di Vienna, quindi di fatto comunque questo tipo di blocco, di sarebbe di tappo per così dire, inevitabilmente costituirebbe un grave ostacolo alla libera circolazione delle merci, e che è un principio che è stato invocato dalla nostra, ed è chiaramente anche degli individui, anche chiaramente è stato un principio che è stato invocato anche recentemente nel corso di un vertice che c'è stato tra la nostra ministra De Micheli, l'omologa austriaca, e il governatore del Tirolo Platter. Il 14 febbraio si parlò appunto di allentare comunque queste limitazioni, questi divieti per i tir, che sono una lunga serie che non ve ma quello era un altro tema, però qui insomma tu non puoi decidere unilateralmente. Anche la Slovenia chiude la frontiera con l'Italia, non puoi decidere in maniera unilaterale la chiusura delle frontiere. Altra cosa è la linea aerea, la compagnia aerea, anche perché stanno volando poco. Un attimo solo, che vorrei sentire il governatore della Lombardia Fontana. Per interrompere questa situazione è ridurre i contatti tra le persone, ridurre il contagio. È stata preparata pertanto una lettera che è stata sottoscritta da tutti i sindaci, che ho provveduto a trasmettere al governo e che ho illustrato in occasione dell'incontro che abbiamo finito pochi minuti fa con il governo medesimo. La sensazione che ho potuto percepire è che ancora non sia ben chiara presso tutti, sia presso i colleghi delle regioni, ma forse anche presso qualche rappresentante del governo, non sia ben chiara la reale situazione che noi stiamo vivendo in regione Lombardia. Non è ancora stata percepita in maniera uniforme. Ciò detto, noi abbiamo insistito per che il governo valutasse ancora una volta i dati che gli abbiamo mandato, che costantemente continuiamo ad inviargli, ma che valutassero anche tre altri aspetti che credo siano fondamentali. Il primo è la lettera dei sindaci a cui ho fatto riferimento, il secondo è che è stata presentata. Fontana, il presidente della Regione Lombardia, sta ricordando le richieste avanzate dal governo che avevo anticipato in apertura del programma. Sì, Fontana dice: forse non è ben chiara tutta l'emergenza che stiamo vivendo. Devo dire la verità, non è neanche chiara a molti italiani, a molti anche milanesi in questo caso. Mi stanno scrivendo decine di ascoltatori che stanno evidentemente rientrando a casa dal lavoro, dove a Corso Buenos Aires sembra di essere in pieno momento di shopping, sui Navigli c'è tantissima gente. Io adesso sono qui, non posso verificarlo. La stessa cosa anche a Roma e in altre località. Allora veramente non ci siamo capiti, però, perché qui abbiamo discusso se si può andare a fare sport da soli, a correre in un parco, che lo prevede anche DPCM, ma tutto il resto no. La crescita dei decessi invece, tornando, è stata più bassa. I decessi sono aumentati del 34%, del 36% nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento dei malati è arrivato al 6,6% con 7.895 a 8.514, più 529. Se fosse così, sarebbe una buona notizia, perché è un incremento più basso del previsto. Do appuntamento a questo punto, ringrazio Andrea Ferro al GR24 per gli ultimi aggiornamenti. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.